Aspetta che sono al telefono. Eccomi, cosa c'è? Aspetta. Via. Oh Lu, sono qua Ehi, chi era che era? No, c'era Roberto nel 10 perché mi ha mandato una foto, una radio che ha preso, ma io ho il microfono a tavolo con quel jack già attestato della Gain, capito? Dobbiamo provarlo, dai. Vabbè, comunque, non lo vuole, solo per trovarti. Te l'ha mandato a rimanere il tipo. Sì, me l'ha mandata ieri, ma io poi guardando mi sono ricordato che c'ho il microfono a tavolo della Gain, capito? Bello, molto bello il microfono, ti faccio la foto, molto bello. Con il connettore così a 5 punte per quella radio lì. Poi guardando dei manuali vecchi che ho io, praticamente quella radio lì è uguale alla Gain come connettore, precisa lì. Perché non ce l'ha lui il microfono? Normale, chiama noi c'è un cazzo, basso esce. Vabbè, fare le connessioni già un attimo. No, ma le connessioni sono già fatte, è già testato, già pronto, capito? Non lo do io quel microfono, assolutamente, un microfono vintage che sono riuscito a trovare come collezionista, non lo do, però per provarlo si può anche provare, capito? Io c'ho una serie nuovo perché è stato restaurato e poi c'ho il patch come radio. Sì, già l'ho visto. Ah, lo so, lo acciai, non c'è problema. Mi ha pagato, mi ha contattato Alessandro Cagliari. Siamo a 3673 in 80 metri. E poi mi ha guardato, adesso che siamo di toccare, ma non arrivi occhi. Beh Lu, questa antenna bene sta andando. Allora, aspetta. Qua. Allora, qua manco si muove. Nulla, zero, si muove poco a poco. State sempre mangiandomi, Lu. Sembra che cosa va a muovere. Meglio in bocca che in culo. Non so, culo. Lo mangi, ma vedi sempre. Claudio. Sì, Maria, che come sto? C'è sempre Matti Gendi. Muore a fermarsi. Quando la zena si ferma di macegà. Capito? Dopo ripiglia. Claudio, te la prima una cremina? Te la? Mamma mia, non ti dico che ci ha messo il zizio. Detto te la, Massimiliano. Sono andato a prendere la mia figlia al bar, no, dopo che ci abbiamo fatto la staffettina lì da Sanna. E niente, tutto tranquillo. Altro arrivo a casa, cosa c'era? Ravioli con la crema di gorgonzola, chissà cosa così. Buonissima, ci mangiato, cazzo. Belli, un 12 mi ha mangiato, belli grandi. Ma a tipo circa ci è durato mezz'ora, ginoando in bagno mi gago sotto. Abbiamo bevuto parlando a giù agli punti, no? Quando abbiamo spedito quel pacco con lui. Tre cremine, dai, così, ma sono piccoline, giusto un po' caffè, roba leggera, fatta di ratti, di cosa così. Cazzo, ma è giunto un cuscio. Io ce l'ho nel frigo, là. Non è l'originale, però c'è buona. Guarda, l'ho presa all'Eurospin, è buona, è molto buona la crema, non se l'hai mai bevuta, lei tu. Il belli sono ben buono. Lo so, ma questa l'ho presa all'Eurospin, è buona lo stesso, eh. Sì, è buona quella, anche quella dell'Eurospin, caspita. Sì, ma quella che l'ha da noi era Belis. Ah, è Belis che mi ha fatto. Tu sei andato a Belis, sei arrivato a Mirton Rosso. Tru. Ma se vediamo, è cantato a Baidenni. sono più un bevitore come prima, ma la crema è così, è anche piacevole perché è roba leggera, no? Ma e la Luca cosa fa zio degli anni fa? Ah Lu, quanto ce ne avevamo di quelle? Mamma mia, no? Come sto? Ma Lu, no, da paura, una bottiglia e 5 minuti ce la bevamo con Luca. E comunque anch'io me ne sto accorgendo, cioè me ne sono accorto da me. Pare così, ma va, boh, devi stare attento al vino. Cioè dopo la seconda cremina, il secondo mirto, lo senti, porca miseria. No, perché forse perché non siamo più abituati, perché appunto prima ne bevevamo di più. Perché boh, forse la compagnia, tutti i gosi, o forse l'età. Ma va, vero lo intendi, eh? Ah, devo di punta bianca. Uno o due amaretti ci siamo bevuti. Oh, yeah. Noi abbiamo avuto buraghi su quattro di Giovanni. Si chiama Giovanni. No, anche no, ma non mi ha fatto niente, so. Dai, tre bicchierini piccoli piccoli, so, li hai visto, sono quelli da vodka piccolini. Va benissimo, non è che... Oh, picchia, mi ha preso la pancia, cazzo, esci Maria Gara. Ma tu la prima sei più abituato, perché no? È porcheria, lui non si può bere quella roba lì, capito? Assolutamente. Vabbè, una volta ogni tanto ci può fare, dai. Vabbè, caro, ma non è che puoi stare vivi. Cioè, se decidi di stare lì, non è che puoi bigliarti a 80 caffè. Io ne posso bigliare uno. Dopo se decidi di stare vivi a chiacchierare, puoi stare a tavolino, non è che posso bigliare a 6 o 7 caffè, no? No, no, no, ma io caffè ne prendo uno la mattina, presto. E basta, poi non ne prendo altri. Poi magari così, come siamo usciti noi, io non li avevo ancora preso perché era presto. E quindi l'abbiamo preso. Poi per mangiare il caffè abbiamo preso questa... ma niente di particolare. A me figurati che mi dà fastidio quando mi si affiancano al mare e stanno bevendo sambuca, whisky, quelle cose lì, mi fa schifo, figurati tu, come ti sei rudimentato, prima no, prima era mia Lande Caraibi, e quando mi ha messo con Califfo che siamo scesi a pescare al porto, era un freddo, una lì, cazzo abbiamo calato, abbiamo messo le canne, tutte in fila, e vera lo biosco, ma io fra, e andare via, cazzo, ma non è torrendo, sapevamo più dove erano le cane che si erano varate tutta a moglie. Se no qua vite. Ehi, ma lo potevi fare allora, dai, adesso con il problema che devi guidare, con la salute che perché roba che fa male non ne può più approfittare, dai. Il ragazzino, mamma dizia, minore, sì, un gabbo di fuma e quindi era così. Poi una volta che metti la testa a posto certe cose non le fai più. Avanti, Lugariello, cazzo già è sparito, no è rudesi, andiamo a giro dei rudesi. Cazzo, non puoi farci affidamento, non puoi farci affidamento. Beh. Perché lui c'ha Gianni vicino, ma lo sta splatterando, c'è invece i rudesi. Vediamo se nel 10. Ah, ma sei qua? No, è che si assenta, capito? Ecco, becco. Sì, vero. Che mesi? E me lo. Bocca. Riprendese. Ha voglia. È proprio, sa. E giù così. Oh, c'è Claudio. Luca, vabbè, a settista. È andato Claudio a cercarlo. E appunto stavamo raccontando a Luca. A Luca... quando siamo andati a spedire il pacco. Ah, va bene, non ho avuto niente così, va. Cappa, cappa, va bene, va bene. Io non ho regolato niente questa radio, come devo toccare qualcosa? Non mi toccare niente, lascia così. No, no, mi chiedo, va bene. E così lo devi lasciare, va bene. Ok, va, vabbè, ciao, qua. Ciao. E poi non ne ha uno, guardalo bene che ha uno quasi e mezzo. Se non l'ha toccato l'amico tuo. Lo bugge guo, qua. Sicuramente ha toccato, per quello che ho detto. E così già va bene, comunque, abbastanza forte la radio. Cappa, cappa, la lascio così, va bene, ok. Via, avanti, tu. È più forte di te, Claudio, il radio, infatti io... molto rauca, da me, capito? Chi è molto rauca? Massimiliano. Non intendo rauca. C'è la radio 2 che è rauca, pure a me è mai tutto rauco. Ma se dici qualche filtro lui? Beh, infatti, infatti lo devo inserire. Eia, Ocla, arriva i punti, dico Massimiliano. Oh, peggio brutto. Specialista più forte alla radio show della mia, di questo del 440 mio. Eia. Vai, hai fatto una cagata, vai. Purtroppo è così. Allora l'ho tirata troppo, Vai, hai fatto un brutto, vai. Non ti facevi, ma la brescia. Perché non la sento io. E non sento la mia in cuffie. Yeah. Ma lui ci sta ascoltando con HF e noi siamo qua con le radio uguali, quindi già la sente se c'è differenza, no? Ma io non la sento così forte. Forse devo fare un volume troppo basso. È normale, amplificata, normale, va bene, bella chiara. Chi è che mi ha chiamato? Chi è? Oh, ciao, Mondi. Ehi, che sei smass. Santiago 5 mi stia arrivando. Buonasera, ben ascoltato. Ciao, Mondi. Non stai che accendo la luce? Non vedo una minchia qua. Anda bene, anda bene. Ok. E quindi lui? Fabio, non mi chiedi in a uno, Fabio, io. Adesso mi sono in mezzo. Questo è a uno, mica. È a uno. Ma adesso, Maria. Cosa, Lu? C'è una cannonata, Ma cosa? Massimiliano. Io non vedo la cannonata. Questa fa la vera cosa. La cosa che quando la stava provando l'ha abbassato un po', comunque a uno spaccato. E così lo devi lasciare, se no vai a trappare da giudizio. E tu che mi ruba. No, tocca, lascia stare così. Cosa siete, messaggeri e baffami incazzare tutti e due? No, io lascio il bianco perché sento, non so se è un mondino qua, siccome lo sai, adesso sono col dipolo e sento delle voci, non so chi è però. No, Mondino ha chiuso, no. Tanto lo sento solo io, quindi è dal vero. Se lo sentiamo 5 a me. E qua era 3. Cosa? E qua era 3, perché lo senti solo tu? Lo senti anche tu? È certo che io lo sento, Mondino. Andiamo bene. Sì, arrivi bene qua a lungo, quel di poco. 9 più 15 arrivi qua. Tu sei 9 e 20 qua. Spavento, hai fatto... ha apparato il tutto, va. Ma, te lo sta facendo voce, già va, No, c'è casino qua, cos'è... Però, lo smetto che si muove da solo, se te lo metto io. Vabbè. Ma questo è tipo... è tipo la tua questa radio, c'è uno Yaesu FT225 RD, più o meno come quello che c'è tu, ma che è tutto giusto. Allora, allontanati, non parlare a voce alta e allontanati dal microfono, perché stai trappando, cosa hai detto? Sto strappando, io sono con tutto un braccio, strappando, sto blu. No, non gridare, cosa hai detto? Ho detto, se questo Yaesu FT225 RD è tipo lo Yaesu, ma il tempo di tuo, giusto? Il tempo di mio, se Yaesu come fa a essere uguale al tempo di mio, Massimiliano? Ma infatti non lo comprendo, dove si assomiglia? A quale tempo di però? Io di tempo non ho, 1, 2, 3, 4 e 5, a quale tempo di? Questo fa solo le V, capito? Ah, 780 stai dicendo. Quello pace. Quello lì. Questo è il 225 RD. Però della Yaesu, si assomiglia molto al docking. No, a 780, che se 780. No, questo è VU. Questo è VU base. Non lo so. Non ce l'ho neanche presente. Eia. Recuperato l'hai a Luca? Cosa? A Luca recuperato l'hai? No, non ho sentito più a nessuna parte. Boh, come fai a fare rotta con questo ragazzo? Boh. Cosa vuoi che dica? Boh. Vabbè, mamma, travaglia mamma mia. Cosa, Massimiliano? Come per un attesa? Sì, sono Rayana. Ho detto che non voglio andare a lavorare. cuffia, il microfono, la Bose. Ho capito, però se io non chiudo la porta non riesco a dare il massimo della modulazione, che si tende più che il raggio che altro. Vai, Luca. Ma aspetta, qualche volta stava chiamando sotto. Avanti, chi è? Ma perché non la senti la propagazione? Allucinante. Sì, c'è propagazione, c'era qualcuno che chiamava. Nel passaggio con un ghiaccio di polo, non è che faccio chissà cosa. Che c'hai da nuovo a 9.15 di picco? È così questa radio, già me ne accorgo anch'io qua. Va da 10 a 50, cazzo, il wattmetro. Con fischio superi anche il 15. Beh, anche il microfono sicuramente che spinge, tocca sotto il compressore. Ammo è senza compressore. Ah, buono, compressore, un baracchinetto di chi sono arrivati. 1, 2, 3, 4, 5, sì, prova, te qua. C'è la manetta, vuol dire? Cosa? Il Mickey Game. No, aspetta, te lo dico in diretta, aspetta. Il macchinieri è a 5. Va bene. Però dopo che leggermente aumentare un pelo. Un pelo? 6, 7, a 8, così a 8. È buono anche così a 8, lo sai. Vero? C'è una canonata e c'è la radio, porca miseria. Non pensavo, è veramente. Guarda quella tua dopo quella misurazione di quella scala rossa. Per capirci, a vedere si fruscia un microfono. Ah, dopo la guardo, va. Sì, ma già me ne sono accorto qua. Metti in LC e guarda a vedere dove sta modulando. Giusto per farti capire, no? Tutti fa vedere di quella bocca, la voce è trattare un guru. Massimiliano! Ehi, dimmi! Aspetta che esco dal menu di nuovo. Ma hai provato con un SM20? No, SM20 io. Cosa stai aspettando? Secondo me con SM20 gli si addice di più, eh? No, ma l'SM20 ce l'ho sul 140, adesso mi comodo e passo col 140. Questo è il 440, adesso passo col 140. Vabbè, ma perché cosa c'ha l'SM20? C'ha più bassi, così, più alti forse, boh. Non lo so, questo è l'SM20 con 140. Vabbè, anche questo. No, ma tu, il problema tuo è che hai molti bassi come voce, non ce l'hai come la mia, capito? Io spingo più di tonalità acuta per quello, perché su quella regolazione lì chiaramente c'è la mia voce, e quindi in base alla voce, però se tu controlli la LC, lavora nella striscia rossa dentro all'interno, non esce fuori. Ma io veramente non lo metto in LC, ma così muovo il lago. Prima che avevo la cremina, Ghibi. Vediamo se ho compreso la giovane. Secondo me l'SM20 deve provare Massimiliano, le si addice di più. Io lo sento molto, forse troppo forte, deve abbassare qualcosa, molto rauco, capito? Qua da me, da te sicuramente va meglio, che è normale. Vabbè, già mi sono capito, io poi ti mando un audio, vai Massimiliano. Infatti io con 140 che non ha filtri ti sento come ti sente Luca, con troppi medio bassi. Aspetta, ti mando un audio, scusami un secondo Luca. Ma vuoi che abbasso un po', aspetta, così forse quasi neanche a uno al microfono Luca. Adesso è più comprensibile. Meno di uno ancora, 1, 2, 3, prova, guarda un po'. Non c'hai apertura, ma è perfetta, capito? Non c'hai, non c'è rauco, ed è perfetta per me così. Ola, così va, da come la tua spinge. Si sentite anche una voce in sottofondo. Ascoltati là, io che ti ho mandato Massimiliano. Ehi, aspetta, ascolto, riprendete uno, abbassato, vai a... meno di uno, così ce l'ho il Mickey. Non me la mebbiate, non stai spingendo e non è modulazione clappa questo. Perché mi provate da 3 e mezzo io, fai la tizia il controllo di Luca con quella radio, non te ricordo. però boh, qualcosa per me, guarda, è liscia, perfetta, amplificata, non c'è apertura, però io sentivo anche delle ragazze, non so chi c'è in casa, caspita, invece in quella maniera ho sento rauco, Ocla. Vabbè, è così, è così. Anche adesso ho cambiato l'aria, il 140 è totalmente diverso da come stavo ascoltando il 440. Vabbè, comunque, va bene lo stesso e non ci sono problemi, dai. Questa fuglia va bene come modulazione. Auguria. Questa me la sono tirata io, l'ho fatta io. Sì, ti ripeto, avevo 3 MC60, uno lavorato, e quindi mi sono trovato, è entrata questa radio e senza microfono. E quindi stavo usando l'MC50, capito? Aspetta che lo sento, ma se via, l'MC50, ho detto, ma non ho detto modulazione. Avevo l'SM20, mi sono ricordato, ma l'adattatore gli ho messo l'SM20 e va proprio per bene. L'SM20 va benissimo, sì sì. Dipende, ma se via che mi ascolto l'audio. Era positivo, va. Lo guarda, l'ho sollevato così, a uno spaccato, mi chiedi. Così è proprio forte lui. Lasciala così, lasciala così. Già, vabbè, già ti sento lo stesso, non è che, però la mia, da parte della mia colonnina era meglio quella di prima, però abbiamo radio anche diverse, come appunto ha detto Claudio. Guarda, l'ho abbassato un pochino, to. Comprensibilissimo, è una cannonata. Te l'ho detto, è una cannonata. Oia, non da bene vedo. È solo un palo, lì, quasi tutto il braccio, eh. Addirittura, sai, pita. Andiamo e andiamo. Luca! Ma come fai a fare radio con Luca? Come si fa? Va bene, che va bene. Aspetta, lo provo a mettere il volante in soffio a vedere cosa cambia. Eia. No, io in questo mi sono ascoltato una volta che mi avevo fatto appunto la registrazione manuale col Saturnecco, con e senza compressore, atto ogni abisso. Poi vabbè, può piacere a chi non può piacere, naturalmente, però mani tu che andava. Magari un MB più 5 sarebbe meglio del 60, No, abbiamo provato, non c'è problema. Ma già va bene con la radio. Già va bene con la radio, lui ti scrivo perché. Vabbè. Ok, dai, comunque io sono col 140, farò scambiare un po'. Ma sta andando già 20 watt, 50 modulati, quindi ottimo per la tua. Tira, gira, gira, Saviti. Io se mi metti c'è la rotellina sotto, te lo ricordi, non è neanche a metà, Il mitigate ce l'ho sotto la CIO, posso salire ancora, mi non più sa chi sia, ma mettano 140. Allora, brava lavorato Massimiliano, perché così, guarda, così è troppo forte, vedi che è troppo alta la modulazione. Sì. Dico, che non è mai. Dice che lo metto come era, così mi pare, no? Così era. Certo, una cannonata è Bruce. Buco, sono io, sono piccolo e nero. Santo, che va fatto. Questo è. Ho detto, me lo sono fatto per me e va bene così. Non è che devo stare. Non mi ricordo più che cazzo era, se era sotto la I o sotto la C, Buco. Sotto la C lo mettiamo, Così bene, vado. Sì. Massimiliano Bulldozer, cambio. E ti ricordi qua, io ci avevo messo anche il microfono dall'eco. La 140. Sì, grazie, gli hanno aggiornato i bruni. Antonio Bomponi aveva borso un bip su C80, figlio a caschera bip. Quattro toni presa a pezza della LEM. Cosa, Antonio? La scheda quattro toni della LEM nel C80. Mi ricordo, infatti, mi ricordo. Infatti, l'ho detto adesso, non ci ho mai sentito. Ci avevo messo la scheda toni, la scheda bip, dai. Va bene, ce l'ho ben ascoltato. Riprendi, sono io, Luca e Massimiliano. E io saluto a tutti, ben ascoltati. Ho lanciato l'antenna verticale a 2 GG che ho ritirato oggi, il KT250 è della Intec, già li conosci tu, quali so. Ha macchina avevi dato il C80, Antone? L'ho dato... sono principe azzurro, lavorato a lui, poi lui l'ha fatto togliere i Doge Bip, li a Odia e basta, poi io, dopodiché ne avevo comprato 140 e un altro 140, dopodiché l'ultimo apparato che ho avuto, gli altri ricordi, è quello che c'ho ancora, il quadro in banda e basta, e quello me lo sono tenuto, e io ho detto non devo stare a casa avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, questi apparecchi, a parte il casino che ho qua io, dei talici dell'Enel, cose del genere, non riuscivo a cavarne i piedi, ho avuto anche il 757GX che mi aveva dato Stefano, quanto è durato, se no 15 minuti, 4 ore, non di più, fosse incendiato. Capito, non vale più la pena comprare apparecchi del genere dagli ESO perché ci hanno problemi di vento la maggior parte, quindi te le porti a casa e usi, ti si incendia. Addirittura. E ne ha avuto due Stefano, il GT della IAESO, tutti e due, uno era GT2 e l'altro era il normale, tutti e due problemi di vento, va, figurati tu, quindi a un certo punto ho detto va, se lascia per lì, non le prendere più, ho detto apparati del genere, ormai c'erano più di 30 anni di vita, non ti puoi più fidare, prendetele gli ultimi usciti e vaffanculo, è inutile stare a comprare 300 euro quando poi non sai quanto ti dura. Oh, non penso l'hai sentito perché ho... Stefano viene mercoledì, mi ha detto, perché l'ho chiamato ieri per questi due apparecchi che ho ritirato io ieri sera, ma hai capito? Ho preso una coppia di quelli Intec, adesso stavo provando, bisogna funziona, l'unica cosa è che adesso non mi ricordo che frequenza faccia, da quando se parte da 140 fa 150 oppure si ferma lì, perché c'ha meno 600 più 600 come per il ponte, non me lo ricordavo più, capito, mi ricordo il KT330, quello che è della Intec, ma questi qua sono nuovi, non c'è un graffio. Perché lì non puoi mettere un K, Antonio? Ho capito, io posso mettere un K? Ho detto, lì non puoi mettere un K. No, assolutamente, 140 e 180. Se vieni qui a abitare, prendi il baracchino, sai cosa fai? Dopo 5 minuti che l'hai acceso, prendi e ce lo butti dal balcone, perché non è possibile ricezione. Segnale QRM sempre 9, a parte i tralicci che si dice giù, ma l'unico posto che ho modulato con il 140, sono rimasto contento, anzi non con il 140, con il 680, la verità, quando c'è la Grappini in via di Zitto, l'ho piazzato lì col cavo di scesa, un silenzio, sentivo Nuoro, Villaciro, non c'avevo un filo di QRM. Qui è una cosa allucinante, quindi ci vuole un apparato serio che sia schermato, se no sei morto. Sì, no, perché tu sei molto vicino ai tralicci, Antonio. Io mi sto usando 140, ho sempre usato, no? Non ho problemi, sono un po' più distante. Mi sei troppo attaccato ai tralicci lì. Secondo me un problema di antenna. Ma cosa, se ho tolto la mano, l'ho messo la B27L per quel motivo, non cambiava nulla, che cosa cambiava? Ma tu dovresti sentire i talici da 15.000, se tu vieni qua, è che non ce l'ho più 140, ma se tu te lo procuri, te lo faccio usare per 2 o 3 ore, stai tranquillo, cazzo, prendi il baracchino e ce lo metti nuovo dentro la sacca e te lo porti a casa, perché non è possibile, non si può qua, dal QRM che ti dà Sentiero 9 ti fa la testa come un pallone, l'unico guarda che mi ha salvato è il quadro in banda, dicevo tutti benissimo, non c'ho QRM, non c'ho niente, è silenzioso, è perfetto, non mi dà nessun problema, ma il 140 ti ripeto e il 680 te li usate tutti e due entrambi, per carità, non si possono usare qua, no, niente da fare, purtroppo è così. Ci abbiamo qui i tralicci, finché non ce li mettono sottoterra, quei cavoli cavi, non riusciamo a cavarne i piedi. Io lo so, no, io non ho questi problemi, tu sei troppo vicino, per cui è così. Va bene, va bene. Ok, sì, il tesoro non c'è troppo la pesce, con l'SM20. Massimiliano. Io sono qua, vi sto ascoltando. E primi? E se la fate dente pure? Boh. Io va bene, e primi. Comunque facciamo così, come ti ho detto io, non ti preoccupare. Tu vedrai che come cambia la musica. Buonasera, dottor Gian. Ehi, va bene, va bene, va bene. Ok. Ciao Antonio. Buonasera, beh, sentito una marea. È entrato qualche altro, non so chi è. Avanti. Ciao io, ciao a tutti. Ciao Massimiliano, ciao Antonio, buon Pozzi e ciao Claudio. Ciao Tony, saluto, mi hai sentito. Ciao Tony, buonasera, mi ha ascoltato. Ok, io lo so. 7:10. Va bene, va bene. Ehi, Antonio, è un problema, anche se quando ce l'avevo io qua in via Milano, allora. Prima una persona arrivata qua c'era il traice che ha trapassato in via Milano, era 15.000. Poi quando ci hanno dato un buco motore di cancello, in temporale bruciava il motore del cancello. Alla fine poi quando hanno fatto barattare tutto, c'è stato uno sporco da parte della magistratura, ma tu immaginate che i due tralicci attraversavano il mio condominio, quindi. Parliamo a tutti, ma tu sei proprio attaccato alla centrale, capito, dell'Enel lì via Carbonati, e hanno venuto la qua, è chiaro che ti desintegra, va bene, vai Massimiliano, riprendi. Sì, dai, riprendo, che così io vi saluto a tutti e mi devo allontanare, e magari se ci siete riprendo dopo, va. Avanti Luca, non riprende, vai Pompù. Guarda, rilancio a te e vi saluto a tutti, dai. Sì, d'accordo, ciao Massimiliano, ci sentiamo, non c'è problema, buonacera, buon tutto, alle prossimine. Avanti, Cla. Io lo stesso, vi saluto perché me devo preparare per portare il cane. Ti lascio in compagnia di Tonino, ciao Massimiliano, ciao Luca e buona serata a tutti, ok? Se coincide, dopo se ci siete, se no fra te, vai Tonino. Dottore, ci sentiamo. Andrà bene, allora Pomponio, che fai, che fai? Nulla, stavo provando la X300 con un paio di portatili che avevi tirato ieri, VHF, questo funziona benissimo, funziona. Basta, solo che non mi ricordo che frequenza facciamo, la verità, perché dovevo fare, vabbè, la frequenza della motoria non di più, non è capatite a 30, questo è 250 e quindi, vabbè, già vado bene lo stesso, sono i nuovi, me li tengo e li utilizzo, da poche cose li utilizzerò. Ma di domani tu entra, subito il treno c'è, subito l'ho trovato a voi. Che su Manuele, no, io entrare qua ero sul 5, la verità parlavo da solo, cioè io parlavo e c'era uno che mi rispondeva sul 5 in FM in propagazione, c'è un ponte Pappagallo si chiama, tu dici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tu ti senti la voce tua dopo neanche un secondo, hai capito, la zona deve essere polacco, cosa ne so, comunque c'è sempre sul 5 quando è in propagazione, si eccita come niente, si eccita da qua. Stavo parlando con un tedesco, stavo parlando, so perché sono sceso la preparazione a fumo e va a far cuffia. Quindi questo succede solo quando c'è la propagazione? Sì, sì, quando c'è propagazione sul 5 in FM tu senti questo, tu parli in FM e ti riascolti la voce tua immediatamente. Ecco. Andrà bene. Addirittura stavo parlando con quell'omologato con 3 watt e mezzo, figurati tu, recitavo quel ripetitore, deve essere in alto, deve essere. Io c'ho sempre quell'affare buttato una parte e fermami, magandomi hai tornato che non funziona. Non ti ho capito, Tony, cosa hai detto? Ho sempre il BV131 messo una parte, ma quando me l'hai dato che non funziona più. Già te lo controllo, ma un limite me lo porti qua, te lo sistemo qua a casa, non è quello il problema. Mi hanno posto adesso mia nipote per i fatti suoi, e quindi c'ho spazio abbastanza per poterci lavorare, invece prima era un casino, capito? C'era la stanza lì, quindi se c'era lì dentro la stanza non potevo entrarci, eccetera eccetera, adesso lì per i fatti suoi, quindi c'era la stanza di nuovo per farmi il laboratorio. Ah, quindi è andato a vivere con lui? È andato a vivere per i fatti suoi adesso, con un'amica, capito? E quindi è a posto. Io sono più tranquillo, almeno c'ho lo spazio mio, e prima era un casino. Non potevo fare nulla, cosa volevo fare? Era un coso, un bell'onfio prima, adesso già è cambiato. Quindi quando vuoi, ne hai voglia, me lo porti qua e te lo controllo con la Giccio. Deve essere qualche fesseria senz'altro. L'andamento Edoardo, a giro funzionava, staccato tutto, messo da parte. Sempre fermo. E va bene, quando ne hai voglia, fatti vivo, già lo sai, già non c'è problema. Così te lo controllo e te lo sistemo. Così lo utilizzi. Anch'io vabbè, c'ho il lineare fermo. Devo cambiare un finale, devo cambiarli. Al mio. E poi funziona bene, 120 watt ve li dà per il momento. Devo cambiare solo un finale e mi ritorna a dare intorno ai 400-500. L'ho bruciato qua, per una fesseria l'ho bruciato, perché ci avevo messo la X300 sotto la mantova e c'avevo 1,8 di stazionari. Come attaccato ho sollevato il watt per fare la prova a potenza 6, poi tornato se ne esce da 120 watt, quindi era già avuto un finale. Quella è stata colpa mia più che altro. Ma me lo sono preso io, addirittura non è che mi costa niente ricomprarmi il fatto, non costava molto qui. IMRF422 costava 20 euro, me lo ordino e me lo ripiazzo nuovo. Ho già guardato qual è quello bruciato e così me l'ha posto. Gli ho messo delle distanze nuove perché quello che c'era non era troppo grande, era brutto anche da vedere, non so l'altro, sembrava fatto da un pastore, adesso invece è fatto bene il lineare, quello a transistor naturalmente parlo, diciamo, in posizioni pesa quanto quello, cioè la metà di quello che c'è tu, pesa quanto quello a valvole. Ma quel passivo che c'è dietro, 4 watt o 10 watt, non è meglio eliminare il 10 watt e lasciare fisso 4 watt? No, il mio non è di quella roba di 4 watt, 10 watt, pulsantino, il mio è largo lineare. Mettici 2,101 una fianco all'altro e sai quanto è largo. Vabbè, comunque, domani se la passo troppo. Va bene, quando vuoi tu non c'è problema, io sono qua a casa. Ok, dai che risposta a me. Ci sentiamo, a domani, ciao ciao, salutami a tua 50, a tua 25, 45, 75, 48, boom. 125 più largo, Ok, si va, sono lavorato, giusto? Sì, è già così. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao. Ehi, ciao, ci sentiamo.